Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. A Milano, dove se no? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali con il claim dell'edizione di quest'anno, la 51esima di quella che gli stranieri chiamano la Milano Design Week, l'ufficialità, i saloni, per tutti però resta il salone del mobile. Apriamo questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, puntata interamente dedicata all'appuntamento clou del settore casa arredo che si chiude oggi a Milano e che trasforma come ogni anno la città nella capitale internazionale del design. Scopriremo allora le nuove tendenze del settore, i nomi delle aziende, dei designer protagonisti del mercato, le nuove promesse in vetrina al Salone Satellite. Cercheremo di capire anche quali trasformazioni stia attraversando il mondo del design per la crisi e l'austerità che contraddistingue i consumi 2012. Racconteremo anche le iniziative più all'avanguardia del cosiddetto fuori salone. La borsa della spesa. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. 2500 espositori, dai mobili ai complementi d'arredo, dalle cucine ai bagni, ai prototipi degli under 35, le proposte delle 5 manifestazioni che compongono i saloni coprono ogni stile e tipologia di arredo. Rivisitazione del passato, attenzione alla materia, cura dei dettagli sono solo alcune delle tendenze in evidenza. Ma come sta cambiando il design a causa della crisi? C'è chi parla di un ritorno al design industriale anni 50 e alla funzionalità dei progetti, con valori quali utilità, durabilità e accessibilità dei costi in primo piano. La nostra Irene Privitera ne ha parlato con il critico e designer Marco Romanelli. La reazione alla crisi, diciamo, è una reazione articolata in varie parti, che comprende tra le diverse strategie anche una sorta di ritorno alla fidelizzazione del marchio inteso come un saper lavorare in legno, un saper imbottire, un saper gestire una pelle, un saper gestire un marmo. Questo è molto importante perché rispetto appunto alla crisi il cliente, la persona che si avvicina al design, vuole essere assolutamente tranquilla che al di là della bellezza formale ci sia una qualità nel tempo, una qualità funzionale. Uno degli effetti che si notano è che è molto più importante come l'oggetto è stato preparato, confezionato e quindi viene presentato, mentre un tempo era soltanto lo star system che diventava lo specchietto per le allodole. Quindi le persone si avvicinavano agli oggetti di design richiamati dal nome del designer. Quindi in generale possiamo anche notare che c'è tutto un lavoro di ripensamento e di diciamo discesa verso il quotidiano. Facciamo un esempio pratico. Negli anni passati si assisteva a questo fenomeno di gigantismo, per cui gli oggetti presentati in fiera erano degli oggetti in qualche modo improponibili come dimensioni se riportati nella realtà dell'abitare quotidiano. Quest'anno abbiamo proprio notato, a cominciare dagli imbottiti, dai divani, che il divano si alza da terra, quindi è più comodo come seduta e soprattutto è più facile alzarsi una volta che si è seduti, e viceversa le dimensioni sono notevolmente ridotte, quindi conseguentemente i costi sono più accettabili. Per cui, se volessimo chiuderla, diciamo, questa parte con uno slogan, è proprio una maggiore attenzione alla vendibilità del prodotto. Quali saranno gli oggetti, i materiali, i colori protagonisti dei prossimi mesi? Ancora Romanelli. Sicuramente, ad esempio, lo specchio è un tema che quest'anno è presente. Il legno è estremamente presente. Per cui anche degli oggetti dimenticati, in fondo, come la sedia di legno, che probabilmente non erano in anni passati così aspirazionali per un pubblico che si rivolge al design, mi sembra che siano molto ricercati. E allora di nuovo conta la lavorazione, conta la mano di finitura. I legni non sono più trattati in modo artificiale, ma hanno un aspetto molto naturale. Lo stesso discorso potremmo fare col marmo. C'è come questo senso di materiali importanti che dureranno nel tempo e che sapranno invecchiare. Non è, diciamo, un anno cromaticamente definibile. Esistono gli anni del blue Klein, del rosso, abbiamo avuto gli anni del bordeaux, dell'arancio. Invece io credo che ci sia più una tendenza a una sorta di arcobaleno gentile, perché su questi materiali naturali vengono innestati colori che a quel punto possono essere anche numerosi nello stesso oggetto. Come si confronta il settore con l'austerità, la sobrietà e la frenata dei consumi 2012? Sempre Irene Privitera lo ha chiesto a Carlo Guglielmi, che è presidente di Cosmit, l'ente organizzatore dei saloni. Purtroppo il consumatore in questo momento nemmeno si adatta, subisce. Subisce una situazione generale, subisce una situazione di mancanza di sorriso, di allegria. Bisogna recuperare questo, e per recuperarla ci vuole sicuramente una maggiore disponibilità economica, e in questo senso ci attendiamo dal governo una riduzione forte dell'IVA sull'acquisto dei mobili, almeno per la prima casa, come del resto è comunemente fatto in tutta Europa. Ma ci vuole anche ricreare un'atmosfera di serenità. Questo è fondamentale per riportare il consumatore all'acquisto. I consumi non sono fermi, però diciamo si sono modificati. Ecco, proviamo a spiegare all'ascoltatore di Radio 24 come si sono modificati. Beh, c'è una grande attenzione all'acquisto. L'acquisto è molto più meditato, molto più ragionato, e questo è un bene. C'è un acquisto che è più legato sempre di più, almeno, ai temi ambientali, ai temi ecologici, ai temi del risparmio energetico, ai temi della compatibilità. E questo è un altro bene. C'è un'attenzione molto forte ai prezzi, per cui da questo punto di vista l'industria si è attrezzata e sta proponendo una serie di prodotti a prezzi molto interessanti, e questo è un altro bene. Quindi diciamo che in una situazione di crisi come questa, se dobbiamo trovare un aspetto positivo, è una maggiore consapevolezza e una maggiore necessità di riflettere prima di un acquisto. Talent scout della manifestazione, come ogni anno, il Salone Satellite, l'area dedicata ai designer emergenti che arrivano qui da tutto il mondo. Al Satellite negli anni si sono succeduti gli oggetti e i designer del domani. Li abbiamo incontrati e ci siamo fatti raccontare le loro creazioni. È una poltroncina, si chiama Play, in panno, imbottita, struttura in tubolare. C'è la cuscinatura che, grazie a questi bottoni, può essere ripiegata a fare sia da bracciolo, altrimenti può essere ripiegata, andare a costituire uno schienale più, un po' più confortevole. Il progetto era un progetto che uno dei cittadini di un quartiere di Barcellona. Il comune ci ha donato 4.000 metri quadri per sviluppare un progetto nel quale crediamo, che è il Rural Design. E l'idea è aiutare i cittadini a che riportino il verde nel suo giorno a giorno. Delle reti di letto, la rete viene messa in verticale, i legni sono messi in orizzontale, si fanno dei buchi, e delle bottiglie normalissime di plastica si incastrano qua in un letto di uno de doppio con uno single, metti a cerniera e ce l'hai 5 metri quadri di fragole, lattughe, rucola che quindi ti entrano in un balcone. Vi posso rubare l'idea e farlo nel mio balcone. Infatti lo bello di questo progetto è che dopo il salone sarà open source. Tu potrai scaricarti nella web iedbarcelona.es con i disegni e le istruzioni per farlo te a casa. L'importante del design è che adesso, e soprattutto sul verde, tu devi farlo a costo zero. Non si può pagare 3.000 euro per un orto urbano. Praticamente Raul cosa ha fatto? Ha studiato che il caffè è la seconda materia più consumata in tutto il mondo, subito dopo il petrolio. Lui ha sviluppato una tecnica completamente naturale per riutilizzare il caffè, la polvere di caffè usata, e utilizzarla come un materiale nuovo, con cui si può fare pressoché qualsiasi cosa. Lui poi ha fatto delle lampade, dei contenitori. Essere e avere. Exhilarating. It's much bigger than I had anticipated. Di nuovo in studio con Essere e Avere, molto più di quanto mi aspettassi, dice Lenny Kravitz. Lo abbiamo appena ascoltato al microfono di Paola Bottelli a proposito dell'evento che trasforma ogni anno Milano nella mecca mondiale del design. Il party di Kartel, per cui Kravitz ha firmato in accordo con Philip Stark una collezione di 6 poltroncine Mademoiselle, è stato uno degli appuntamenti clou del cosiddetto fuori salone. 600 eventi tra party, mostre, presentazioni, installazioni che trasformano l'intera città di Milano in un contenitore trasversale di creatività. Arrivano da qui oggi gli spunti per il focus sui trend di questa puntata speciale, tutta dedicata al design in occasione dei saloni 2012. A guidarci nell'analisi, come sempre, c'è Patrizia Martello di Mimeti Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Terreno fertile per i cosiddetti cool hunter, per chi a caccia di nuove tendenze, il fuori salone racconta tutte le novità in tema di design, comunicazione, prodotti e istanze di consumo. Patrizia, che cosa si è visto quest'anno? Si è visto per esempio il design che migliora il mondo, il cosiddetto good design. Il design dà forma a tutto quello che ci circonda, alle nostre vite, ma c'è un design responsabile che mette l'accento sugli effetti emancipativi del progetto e degli oggetti creati da un punto di vista appunto sociale, ambientale, etico. Tra le proposte più interessanti del fuorisalone, good design, lavorare bene, abitare meglio negli spazi di Cascina Cuccagna, questa cascina settecentesca nel cuore di Milano, in collaborazione con l'associazione Best Up. Tra gli oggetti e progetti da segnalare, tra i moltissimi, i filtri di cartone. Cartone che è elemento sempre più presente non solo al fuorisalone da qualche anno, ma anche al salone, con mobili, arredi appunto fatti in questo materiale. Un esempio su tutti, Cube Design, architetture di cartone. Parliamo invece dei filtri, dicevo, si chiamano Next, sviluppati da Next Materials con il Politecnico di Milano. Sono in cartone ondulato, riciclato e riciclabile, silenziosi, con proprietà antibatteriche. Belli anche da vedere, avranno applicazioni molto interessanti, oltre che per migliorare la qualità dell'aria nelle case e negli uffici, anche per la sicurezza alimentare, per esempio per frigoriferi industriali e banchi frigo dei supermercati, nei quali riescono già, dagli esperimenti fatti, ad abbattere la carica batterica dei cibi del 50%. E ancora camini al bioetanolo senza emissioni di CO2 e la Solar Schiscette, un oggetto low tech per chi mangia fuori dagli uffici, sulle panchine o nei prati al sole. Ricordiamo che schiscetta è il termine lombardo per indicare un contenitore di cibo da asporto. Bene, Solar Schiscetta riscalda il cibo che ci si porta da casa dentro questo speciale involucro portavivande, che è di fatto un forno solare, quindi una tecnologia antica. All'interno ha dei pannelli riflettenti che concentrano i raggi del sole e riscaldano il pasto. L'altra parola chiave del fuorisalone è make, fare. Parliamo di fare artigiano, un grande tema che anima il dibattito socioculturale ed economico oggi e che non poteva non essere interpretato soprattutto nel fuorisalone, che appunto è un contenitore di eventi, catalizzatori di tendenze già in atto, ma anche generatore di nuovi immaginari futuri. Ed è il caso dei nuovi artigiani e del loro sapere, messo a sistema nelle varie performance, leggibile anche come metafora di una possibilità futura per il rilancio del made in Italy. Nel circuito di zona Ventura Lambrate si sono concentrati mostre ed eventi come Making Together, fare insieme. Si legge, entrando da Logotel, la service design company che ha curato e ospitato l'evento, tutte le cose di questo mondo sono fatte con qualcuno e con qualcosa. Ogni processo creativo è un atto di collaborazione, relazione, una collaborazione con altre persone e soprattutto con gli strumenti del fare, strumenti che tra l'altro sono anche elementi visivi ricorrenti nel fuorisalone: martelli, seghe, spatole, punteruoli, insomma attrezzi vari, sia come segni grafici che come oggetti fisici appesi, appoggiati, comunque esposti, e dunque una presenza simbolica significativa, certo non a discapito della tecnologia, che però diciamo più implicita, non ha bisogno di recuperi e valorizzazioni. In sintesi, il nuovo rivoluzionario Making Together è una combinazione di tradizione intuizione, artigianalità, tecnologia e pensiero progettuale contemporaneo, oltre che collaborazione. E mescolando proprio designer, imprese artigiane e laboratori tecnologici, Subalterno 1 Design Gallery, luogo dell'autoproduzione italiana, ha presentato Analogico Digitale, una mostra evento intorno alle storie di making di artigiani, di fabbri, di designer, a cura di Stefano Maffei e Stefano Micelli. Nel mondo del design si stanno facendo molta strada concetti quali autoproduzione, piccola serie, produzione partecipata. Lo testimoniano realtà come garage design, showroom virtuale, webshop e atelier di produzione insieme, oppure Slowed, prima piattaforma italiana per il design a chilometro zero che mette in relazione designer, artigiani e clienti. Da segnalare anche l'iniziativa di XYZ Design destinata ai giovani designer, l'operazione Prototozoi. Ecco come la spiega un video parodia della celebre scena del film di Woody Allen, tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere. È un'azienda che vuole essere fecondata da giovani prototipi di giovani designer. Wow, sembra che finalmente possiamo dar vita a un vero prodotto. Sapete che c'è là fuori? Una giovane azienda che vuole essere fecondata. Ma io ho paura, non voglio uscire. Ma è per questo che siamo stati progettati. Si sentono strane cose là fuori. Tipo che cosa? Le grandi aziende del design che non scommettono più sui giovani, sulle nuove idee. Interi contingenti dei nostri che si schiacciano contro i tempi della produzione. Un vero prototicidio. Ma qui si parla di un'azienda artigianale che vuole essere fecondata fuori dalle logiche della grande industria. Non voglio, non voglio. Giovane prototipo, è ora di diventare prodotto! Patrizia, davvero c'è un problema di creatività nel design? C'è voglia di produzione dal basso, partecipata? Sì, il tema c'è e partecipazione e autoproduzione sono non a caso due dei temi più riccamente interpretati dal fuorisalone. Alla Fabbrica del Vapore, nella Cattedrale, allestita e curata da Alessandro Mendini, MISIAD, Milano si autoproduce design, con 202 creazioni di designer e artigiani milanesi di ogni età e formazione, quindi una grande, ampia raccolta di creatività, di talenti, una sorta di grande mercato mostra molto partecipata. Riciclo e riuso continuano ad essere una matrice ispirativa molto fertile, così come le lavorazioni fatte a mano dei materiali, dei tessuti, per esempio si è visto molto knitting, si sono visti molti telai, con una prevalenza massiccia anche quest'anno del legno, soprattutto grezzo e in generale di materiali naturali. E il tema della natura, del verde, oltre che nelle forme organiche degli oggetti che imitano le forme naturali, continua a trovare espressione negli orti. Un esempio tra i molti, Orto Fabbrica, ideato e realizzato da Angelo Grassi, con temi quali acqua, energia rinnovabile, recupero di un'economia anche delle origini e un'insistenza sul ritorno alle forme di sopravvivenza rurale, un tema interpretato anche in versione urban glam dai danesi Stampiet. Hanno creato un punto di ristoro, un'installazione in zona Ventura con uno scenario bucolico, carriole per sparecchiare i tavoli, una betoniera riciclata, rivista per impastare farina e uova e fare pancake, spighe tutto intorno, prezzi accessibili. Un'idea che non è certo un'utopistica rappresentazione messa in scena di un futuro, diciamo, di decrescita regressiva, ma una provocazione concettuale attraverso il cibo che sempre più è capace di interpretare le grandi istanze dell'immaginario. E poi il design impossibile, 5 progetti virtuali in controtendenza con la profusione di oggetti fisici del fuorisalone, impossibili nel senso di utopici, firmati da designer, artisti e architetti, opere di per Milano. L'evento curato da Ludovica Lumer, neurobiologa, filosofa e gallerista, in collaborazione con Circle Me, il nuovo social network lanciato a metà marzo, la startup italiana, basato su interessi comuni fuori dalla rete, quindi che invita le persone a condividere luoghi fisici e disseminare cose per la città. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Milano? Ovviamente questa settimana, lo abbiamo detto, è la capitale delle nuove tendenze. Sentiamo cosa ha scelto di raccontarci la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. dunque Life Installed, 4 minuti per pensare al futuro, è l'installazione realizzata quest'anno al Fuorisalone da Samsung in collaborazione con l'architetto Italo Rota, una sorta di prova generale di come abiteremo nel 2015 e di come le tecnologie touch in particolare saranno integrate nello spazio abitativo. Muniti di un tablet che ci viene consegnato all'ingresso, si entra in una grande sala in cui pareti, pavimenti e oggetti sono ricoperti di una patina di velluto grigio che rende tutto uniforme. Ma una volta attivato il tablet e puntato sugli oggetti, la casa si anima e appare un film che a 360 gradi ci racconta scene di vita quotidiana di un futuro prossimo venturo, in cui la cucina, per esempio, è un microcosmo di autoproduzione con colture idroponiche, tavolo e frigorifero intelligenti. In bagno uno specchio touch ci suggerisce i vestiti e il trucco da abbinare, oltre a fungere da personal trainer e all'occorrenza da scanner che monitora il nostro stato di salute, fino al garage che sembra quasi una ciclofficina e dove in un angolo un'automobile ormai chiaramente dismessa funge da portapiante. Grazie Alessia. Patrizia, tiriamo le somme di questo Salone 2012, dove sta andando il design? Senz'altro c'è un grande ritorno al design funzionale, complice evidentemente la crisi che mette sempre più in primo piano valori quali ecosostenibilità, durata, utilità, ma anche multifunzionalità e nonché accessibilità dei costi. Tutto questo non a discapito di estetica e di forme belle, che tuttavia in certi casi cominciano a passare anche in secondo piano. Finisce qui anche questa puntata, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it. Andate nella pagina programmi dedicata a essere e avere, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.